Yo, the armies of the rapper say, you know, this is my brother, I just know. I'm Mr. DJ Lego the tuna. If you bad man, if you bad man, if you bad man, if you bad man, scegli la tua strada, la mia ormai è palese. Non ascolto le tue pretese, tipo voci di paese. Siamo diversi e non serve cavillarci. Buoni marci, sani stracci, nuovi stracci. Preso male ma sono istinti che domo col suono. Una cosa è essere l'uomo ombra, un altro un'ombra di uomo. Non mi stoppo, a sta vita non chiedo troppo. Ma non è che se ho ragione ci sei tu a loro torto. Dal male nativi ci chiami ragazzi cattivi. Ma perché vivi dando aggettivi negativi? Se mi vedi schivo come le merdate che scrivo, sia affetto correttivo o sberla senza motivo. Goditi la vita, il presente basta. Non fare il troglodita condiscendente alla massa. Ho emozioni che leggo alle pari in cui annego. Ma per te sarò un cattivo ragazzo, non so se mi spiego. If you bad man, per sta gente che ci caio, ho alzato una muraglia. If you bad man, illusioni da gentaglia, inizia la battaglia. If you bad man, per sta gente che ci caio, ho alzato una muraglia. If you bad man, illusioni da gentaglia, inizia la battaglia. Poi come no, tu c'è l'ho, ma io c'ho flow. Le emozioni molto il tipo che mi spavia un po'. Dici che mi drogo, ma la droga non ce l'ho. Per fortuna non mi faccio la tua fine, non farò. Le regole ben precise di un bad boy, tu non le sai. Mo chi spara per la strada, io ti spara con la cae. Chi pusha per la strada, mo chi pusha con le fai. Ballatole di flow, ama boom, bye bye. Bad boy, non ci caghi, resta discorsi vaghi. Primo della lista, ma opportunista come Inzaghi. Rilaghi nelle tante cazzatelle che dici. Mo tiro fuori la mia indole da demone caici. Espandi le tue paranoie da ovest a est. Ma sono un genio, l'unica cosa che non passo è l'alcol test. Esci dallo stato di stasi su cui ti basi. Non siamo ragazzi arrivati, ma ci siamo quasi. If you bad man, per sta gente che ci caio, ho alzato una muraglia. If you bad man, illusioni da gentaglia, inizia la battaglia. If you bad man, per sta gente che ci caio, ho alzato una muraglia. If you bad man, illusioni da gentaglia, inizia la battaglia. Me la devono succare, compa, la senti che voce da negrone proprio, compa, la voce del Queen. La voce del Queen, coglione. Vero.